Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. E diamo il via al soundcheck di Radio 24, il suono della musica. Buonasera a tutti voi, buona domenica da Gegè Telesforo, buona domenica a Francesco Tromba. Ciao a tutti. Allora Francesco, ho selezionato per i nostri appassionati di musica delle novità e ci muoviamo oggi in un confine che va fra il contemporary jazz R&B fino al jazz contemporaneo proprio di nuova generazione. Eh sì, grande scaletta e grande musica, mi piace tantissimo. Ti è piaciuta? Tantissimo. Bene, ma io ti ringrazio perché anche tu mi hai selezionato dei nomi che proprio non avevo considerato. Eh sì, soprattutto la prima artista che andremo ad ascoltare mi è piaciuta molto. Anche a me è piaciuta moltissimo, eh? E mi piace anche perché è una cantante, ma prima di tutto una musicista, perché anche lei è una sassofonista. Mi ricorda un po' proprio per il suo approccio con la musica Amber Navran dei Moonchild, perché anche lei è sassofonista e cantante. Ma qui stiamo parlando di una ragazza inglese che si chiama Laura Misch. Sarà per caso parente di Tom Misch? Sì, sorella di Tom Misch. È proprio la sorella di Tom Misch, esatto. Ma che famiglia hanno questi qui? Sì, poi sì, da quando si sono trasferiti a Londra sono ancora più attivi, collaborano con tantissimi artisti. Ha realizzato un disco molto carino. Che cos'è? Un EP? Sono 5-6 brani? No, è un LP, lei lo considera un LP perché comunque arriva quasi a una mezz'ora di lunghezza. Ecco, non è che sul sassofono è una solista, perché a soli non ne fa, però gli arrangiamenti che propone sono molto interessanti, intriganti, anche il genere. In qualche modo credo che Laura Misch sia un pelo più avanti del fratello, che invece tende a piacere discograficamente. Sì, e lui è un po', diciamo, più paraculo, fammi passare il termine. Prego, prego, figurati. Mentre lei è un po' più minimal, diciamo, cura molto di più gli arrangiamenti, e poi questo disco l'ha fatto completamente da sola, quindi è ancora un plauso maggiore. Allora, Laura Misch si chiama questa sassofonista, cantante, sorella di Tom Misch, album dal titolo Playground, il brano che abbiamo scelto per presentarvela qui al soundcheck di Radio 24, si intitola Forsaken, Laura Misch. Eh sì, oggi diamo il via al soundcheck con due artisti di nuova generazione. Abbiamo ascoltato Laura Misch, sorella del più noto Tom Misch, che abbiamo presentato più volte qui nel nostro programma, brano intitolato Forsaken, album Playground. Ma c'è un altro artista che mi hai segnalato, che a me è piaciuto tantissimo. Questo signore si chiama Elbows, ovvero gomiti proprio. Sì, in realtà il suo nome originale è Max Schiebel, quindi Max credo che abbia delle origini anche tedesche, immagino, dal cognome. Però lui è residente a Brooklyn, ovviamente, come sentiremo dal suo sound, ha l'approccio super contemporaneo, mischiando i generi, quindi non ha assolutamente limiti a livello di sonorità. Sì, vi stiamo parlando proprio di artisti della nuova generazione, quelli che probabilmente potrebbero rappresentare anche il futuro e l'evoluzione del sound, in questo caso tipico di New York. Eh sì, lui è il secondo EP che si chiama Corduroy ed è molto interessante, soprattutto anche a livello di produzione, molto bravo, considerando che comunque è un giovanissimo. È stato realizzato il fisico? Esiste il CD, il vinile di questo album o soltanto digitale? Che dici? Esistono pure le musicassette, perché ormai sono di grandissima moda negli Stati Uniti. Ma sul serio? Sì, quindi se andate su Bandcamp potrete anche acquistare volendo la musicassette. Ma pensa te! Questa cosa delle cassette è andata di gran moda soprattutto perché è capitato, diciamo, quasi per caso, no? Che tanti sedicenni prendono la patente e ovviamente la prima macchina hanno una macchina vecchissima, abbastanza scassata, che ha un'autoradio vecchia che può riprodurre solo ed esclusivamente musica a sette. E quindi in questo modo è tornata la moda della musica a sì, sette. Esatto. Pensa te, allora mi devo rimettere, perché io ce l'ho il registratore, è soltanto che non funziona, che saranno quanti anni? 15 anni che non lo uso. Se vuoi vendere ai ragazzi giovani in America. Ma no, io non vendo nulla, le mie cose non le vendo, devo ripristinare, spolverare, fargli come dire, una, rimetterlo in sesto. Ti devi aggiornare, tornando indietro, vedi, mai dimenticare il passato. Eccolo qui, Elbows, il brano si intitola Think Twice, Corduroy è il titolo dell'album. Attenzione, teniamo d'occhio questo ragazzo. Soundcheck. Il suono della musica. Questo è il soundcheck di Radio 24 e questa è la voce incredibile di Jasmia Horn, che sta ottenendo un grandissimo successo. Questo album intitolato A Social Call è stato annunciato come l'album rivelazione del jazz vocale di oggi, e Jasmia Horn probabilmente riuscirà a guadagnarsi una bella fetta di pubblico anche con un album nel quale non ci sono i soliti standard, come sta facendo Diana Krall ormai da anni, ma ci sono anche delle composizioni originali molto interessanti come questa I'm Going Down. Jasmia Horn è anche un'abilissima improvvisatrice vocale, utilizza molto bene la sua vocalità, si lascia andare in skate addirittura a velocità iperboliche. Eh sì, tra l'altro comunque anche i standard che ci sono nel disco sono rielaborati in maniera personalissima, assolutamente. Lei ha un talento impressionante, infatti ha vinto addirittura la Thelonious Monk Competition e anche la Sarah Vaughan Competition, cosa che non riesce facilmente a delle cantanti così giovani. Lei ha 26 anni, classe 91. Senti, che mi puoi raccontare della produzione di questo album? Che cos'è? Indipendente, multinazionale? Con chi sta lavorando? No, è stato prodotto dalla Prestige, dalla Concord, tramite la Concord, perché comunque a lei, avendo vinto la Thelonious Monk Competition, si è aggiudicata proprio la registrazione con una major, perché praticamente è distribuita da una major. Ma i musicisti, perché suona tutto molto bene, sono tutti della nuova generazione, tutti più o meno coetanei di Jasmia Horn, abbastanza diciamo sconosciuti come nomi, però molto bravi, gente che suona parecchio soprattutto nei locali di New York. Jasmia Horn, che cos'è, il nome d'arte oppure viene da una famiglia di appassionati di jazz e quindi alla figlia l'hanno chiamata così? Lei credo sia proprio il suo nome vero e proprio, lei viene da Jasmia. Dallas ed è figlia, ovviamente si risente anche nel suo suono il gospel, lei è figlia di un ministro della chiesa gospel di Dallas. Certo, nel DNA devono avere proprio si sente proprio dal suono. Lo avverti subito. Lo avverti subito, è vero. E dal suono della giovane vocalist Jasmia Horn, vincitrice della Thelonious Monk Competition, passiamo invece a un altro musicista della nuova generazione, ma ormai considerato un veterano, perché quanta musica ha già creato e proposto discograficamente dal vivo. Un pianista bravissimo come Gerald Clayton, probabilmente uno dei miei preferiti della nuova generazione. Versatile musicalmente, ma quando poi si dedica alla sua musica, fa cose diciamo toste e interessanti. E questo album nuovo, dopo il bellissimo Jazz Forum album intitolato Tributary Tales, è veramente bello e ben realizzato. Sì, anch'io vi consiglio assolutamente di procurarvelo e di ascoltarlo. Peccato che non ci sia Silvia Barba, perché in questo disco c'è come batterista il suo amico Justin Brown. C'è Justin Brown alla batteria. Quali sono gli altri musicisti presenti nell'album? Ci sono ben tre sassofonisti che si alternano, suonano insieme in alcuni brani, e sono Logan Richardson, Ben Wendell e Dinah Stephens. I nuovi leoni. Esatto. Come bassista c'è Joe Sanders, e poi ci sono anche dei guest come Sasha Alvasandani e i poeti Carl Hancock Rooks e Aja Monet nelle parti vocali. Il nostro amico Sasha Alvasandani coinvolto nel progetto nuovissimo di Gerald Clayton, dal quale vi faccio ascoltare questo brano che è splendido, forse anche uno dei meno complessi dell'album, molto godibile, ma per quello l'abbiamo scelto per presentarvi questo disco qui su Radio 24. Il brano si intitola Soul Stomp, Gerald Clayton al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Che suono, ragazzi, il sound di Terence Blanchard, un grande maestro, eccellente compositore. Quante colonne sonore ha già realizzato questo signore con la sua tromba e con i suoi meravigliosi collaboratori. Infatti questo brano intitolato Jakey in the Rain è un brano tratto dalla recentissima colonna sonora del film The Comedian, interpretato da Robert De Niro. Sì, è Jakey Burke, è proprio il nome del personaggio interpretato da De Niro, che è un appassionato di jazz, soprattutto un collezionatore seriale di album di Art Blakey, e poi anche ogni tanto durante il film fa delle presentazioni come faceva il mitico Pee-wee Marquette al Birdland. Allora, Terence Blanchard, non perdetevi questo album, anche se una colonna sonora è una colonna sonora di tutto rispetto. E poi troviamo al pianoforte un veterano come Kenny Barron e al sax tenore figlio d'arte Ravi Coltrane con Terence Blanchard. Sai che siamo già ai saluti, tromba? Eh sì, la domenica finisce subito, poi con questa musica sembra durare ancora meno. Guarda, però voglio chiudere in bellezza con un altro album che a me piace tanto e che mi sta facendo compagnia in macchina, soprattutto perché ormai sai che io ho la classifica dell'airplay nella mia macchina quando vado in giro per diletto ma anche per lavoro, e in questo momento fra i primi posti nell'airplay della mia automobile c'è Find the Way, album del pianista Aaron Parks. Che mi dici? Pubblicato da ECM, come tutti i dischi ECM è abbastanza tosto da ascoltare, però è molto bello. Gli altri compagni di viaggio di Aaron Parks sono Ben Street al contrabbasso e Billy Hart alla batteria. E noi vi salutiamo con Aaron Parks al pianoforte, il brano si intitola Song for Sashu. Naturalmente, come tutti i musicisti di jazz della nuova generazione, quando suonano poi in questo tipo di produzione si lasciano andare, quindi la composizione è abbastanza estesa, stiamo a 6 minuti e 22 secondi, però riusciremo a mettere in onda un po', spero. Altrimenti andate a cercarvi il disco e compratelo assolutamente. Beh, noi stiamo qui per sì, quello, per stimolare l'acquisto della musica, è vero? Eh sì, perché merita questo disco. A tutti voi buona domenica e buona musica da Giorgio Telesforo e da Francesco Trombo. Ci risentiamo sabato alle 19:15 sempre qui su Radio 24.